Europa 24. Un saluto da Gigi Donelli, subito in collegamento con Bruxelles, con il corrispondente del Sole 24 Ore, Beda Romano. Buongiorno Beda innanzitutto. Buongiorno. Dunque Beda, almeno due temi, anche se in realtà le agenzie battono, per esempio qualche momento fa presa di posizione del Consiglio d'Europa sulle pensioni minime inadeguate, le svilupperemo nel corso della giornata tra i temi appunto di Radio 24. Di sicuro dicevamo oggi una giornata lunga, giornata per Enrico Letta e una serie di annunci che si attendono da Michel Barnier. Direi di partire da Letta dunque. Sì, il Presidente del Consiglio è arrivato questa mattina a Bruxelles, dove ha già avuto una serie di incontri, il primo con il Presidente del Consiglio europeo Herman Van Rompuy e un secondo questa mattina con un gruppo di parlamentari europei italiani. L'obiettivo di questa visita è doppio, il primo obiettivo è certamente quello di preparare anzitempo la presidenza italiana dell'Unione dal prossimo luglio ed è anche per questo motivo che il presidente Letta, accompagnato da alcuni ministri, sta vedendo proprio in questo momento la Commissione europea e il presidente José Manuel Barroso. Il secondo motivo di questa visita è la presentazione in Parlamento nel pomeriggio dell'Esposizione Universale Milanese del 2015. Il tentativo del governo è noto, vuole cercare di utilizzare questa grande manifestazione per tentare di rilanciare l'economia o comunque di contribuire al rilancio dell'economia nazionale e pronuncerà quindi un discorso questo pomeriggio al Parlamento europeo, anche per sensibilizzare i parlamentari non italiani a questa manifestazione. Ecco, su questo naturalmente il rilancio passa anche per i temi, il tema delle banche. Noi ne stiamo parlando in maniera regolare, qui è una questione di problemi di finanziamento, liquidità da un punto di vista europeo e qui veniamo a Michel Barnier, la presentazione insomma di un percorso di riforma bancaria di cui parliamo da tempo ma che passa una tappa direi fondamentale. Sì, tappa fondamentale per certi versi ultima in un certo senso. Michel Barnier ha fatto degli ultimi 4 anni, il suo obiettivo è stato la riforma del sistema finanziario dopo la crisi provocata dal fallimento di Lehman Brothers nel 2008 e quindi ha messo mano a tutta una serie di cose, dai derivati al ruolo degli hedge funds, al problema della manipolazione dei mercati o degli abusi di mercati e via di seguito. Oggi ha presentato l'ultimo tassello di questa riforma ed è un tassello sulla struttura del sistema bancario europeo. L'obiettivo della riforma proposta da Michel Barnier è quella di far sì che ci sia in un modo o nell'altro una separazione tra banca di deposito e banca di investimento. Allora, noi sappiamo che dopo la crisi del 1929 gli Stati Uniti decisero di fare una separazione drastica tra queste due attività, evitando quindi la possibilità per una banca di deposito di essere al tempo stesso banca di investimento. Quella riforma degli anni 30 fu riformata a sua volta negli anni 90 e nacque negli Stati Uniti e poi in Europa la banca universale. Allora, oggi Barnier, la proposta di Barnier non ritorna indietro, in altre parole non separa queste due attività e questi due tipi di banca, ma cerca di porre rimedio imponendo dei limiti alla possibilità, per esempio, delle banche di fare contrattazione in conto proprio utilizzando i soldi dei depositanti. Quindi cerca in un certo senso di rimettere mano all'assetto bancario europeo e alla banca universale, ma senza rimetterla completamente in questione. La proposta è stata fatta oggi e dovrà essere negoziata dal Consiglio e dal Parlamento nei prossimi mesi. Grazie a Beda Romano che ci ha fatto il punto da Bruxelles, dunque in diretta su questi due capitoli naturalmente molto diversi, il secondo che riguarda quelle che sono le profonde riforme strutturali del sistema dell'Unione Europea. Grazie ancora e Europa 24 si conclude qui, torna naturalmente domani, ora è tempo di dare la linea allo sport. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.